Salva Danaio di Deborah Rosciani. Gentilissima Deborah, seguo sempre con molto interesse le puntate di Salva Danaio e in particolare quelle del martedì, che trattano il tema del lavoro e sono tante le domande che vorrei porvi. Come si può aiutare al giorno d'oggi un lavoratore che deve ricollocarsi e che vuole riqualificarsi in modo opportuno? Come può questa persona aumentare le proprie possibilità di ritrovare un lavoro o di inventarsene uno in proprio? Non conosco i soggetti che possono aiutare un giovane a scegliere il proprio percorso formativo, che gli permetterebbero di avere maggiori possibilità, di acquisire una professionalità che effettivamente il mercato richiede e non trova. Insomma, chi cerca lavoratori e dove? Quali sono le agenzie, i siti internet, i saloni, gli studi che possono aiutare a mettere in contatto chi cerca lavoro e chi lo offre? Vi ringrazio e vi saluto. Enrico. Buongiorno a tutti da Deborah Rosciani, bentrovati a Salva Danaio. Anche oggi la puntata di Salva Danaio parte con una lettera che ci è pervenuta in redazione, anzi una mail per la precisione, anche se abbiamo utilizzato appunto il rumore della macchina da scrivere. Insomma, gli ascoltatori ci spingono sempre di più alla concretezza e dicono, come ha fatto Enrico che ci ha scritto dalla provincia di Torino: sì, va bene martedì del lavoro, ma dove si sta muovendo qualcosa? Segretarie, autisti, operatori di macchine, commesse, cercasi. Se da un lato l'appuntamento con i dati Istat e non solo è ormai un prevedibile portatore di cattive notizie, basti pensare ai recenti aggiornamenti sulla disoccupazione del primo trimestre, ma non solo, altre statistiche europee sono state diffuse ieri e ancora una volta il nostro paese è sotto la lente d'ingrandimento per il cattivo andamento del mercato del lavoro. Dall'altro ci sono alcuni profili che in Italia le aziende cercano e non trovano. Il problema forse è anche nella capacità di individuare giusti percorsi di orientamento e formazione, imparando a capire, a leggere il mercato del lavoro, come ha fatto questo ascoltatore, dalla cui lettera abbiamo deciso di partire per questo nuovo appunto martedì del lavoro di Salva Danaio. E allora, sapete quali sono i profili più ricercati in Italia nel cercare lavoro? Avete messo in conto di investire in un percorso di orientamento e formazione con l'obiettivo preciso di rientrare in uno di questi profili? E poi, come conciliare i sogni con le esigenze del mercato? I più coraggiosi pensano anche di mettersi in proprio. Tutti questi temi stamattina li affronteremo con i nostri ospiti, ma soprattutto appunto da loro ci faremo dare un contributo molto preciso sulle professioni più ricercate, in modo che magari gli ascoltatori appunto che sono alla ricerca di lavoro possano identificarsi magari proprio in una di queste. 800 24 00 24 il numero verde che vi dà come sempre l'opportunità di intervenire in diretta, parlare con noi di questo problema attualissimo e anche sta diventando un vero calvario, per la verità, la ricerca del lavoro per molte persone in Italia. Noi ci confronteremo con Zoltan Daghero, Senior Sales Director di G Group. Abbiamo chiamato questa mattina le più grandi società di intermediazione di lavoro, soprattutto di offerta e domanda. Daghero, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Grazie anche ad Alessia Gozzo, Candidate Manager per Adecco. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno dottoressa Gozzo. Tra l'altro, la dottoressa Gozzo la concentreremo soprattutto nella prima parte del programma, perché poi per altri impegni ci deve lasciare, per cui sentiremo subito l'esperienza di Adecco, le proposte di Adecco appunto nella prima parte di Salva Danaio. E con noi anche Daniela Caputo, Social Media Manager di Manpower Group. Buongiorno. Buongiorno, ben trovati. Allora, oltre al numero verde, come sapete bene, potete chiacchierare con noi e scriverci anche al 349-238-6666. Potete scriverci all'indirizzo di posta salvadanaio@radio24.it. Siamo su Facebook e siamo su Twitter, dove tra l'altro questa mattina a sorpresa ho notato che ci sta seguendo anche il portale del Ministero del Lavoro, Click Lavoro, e quindi magari più avanti cercheremo anche l'occasione per coinvolgere il sito istituzionale e quindi anche questo, insomma, ci è sembrata una cosa carina da raccontarvi. Detto tutto questo, solamente un minutino di borsa, perché oggi vale la pena raccontare anche quello che succede sul mercato. Lo dicevamo anche nel giornale radio, oggi la borsa europea è positiva, è arrivata una spinta di nuovo stamattina da Tokyo che ha chiuso con un rialzo del 2%, le borse europee recuperano i cali di ieri. Per Parigi e Francoforte abbiamo un rialzo di mezzo punto, per Londra più 0,6, Milano e Madrid sono un po' più sostenute, guadagnano lo 0,8%. I titoli più gettonati di Milano, STM, più 4,67%, il numero 1 Carlo Bozzotti ha individuato delle prospettive di crescita positive per la società e ha minimizzato l'impatto sui conti dall'uscita dalla joint venture con Ericsson. Banca Popolare di Milano più 3, Azimut più 2,54, UbiBanca più 2, Fondiaria più 1,97, Monte dei Paschi più 1,60, Generali più 1,32, esce dalla banca assicurazione americana e il gruppo appunto beneficia anche di questa operazione. Mentre non beneficia delle indiscrezioni sulle operazioni di riassetto della holding di controllo Canfin, Pirelli che perde il 2%. Ci si aspettavano questa mattina delle notizie più precise sulla riorganizzazione del gruppo. È stata ammessa da Marco Tronchetti Provera, sentite questa, una nota di transizione che nella sostanza dice: non abbiamo ancora finalizzato gli accordi, la definizione degli accordi è in corso di completamento, per cui non si sa molto più di questo. Nel frattempo i titoli ieri sospesi dalla borsa oggi invece sono in una giornata negativa. Negativa anche la seduta di Fiat, meno 1,90, per Prismian meno 1,95, G-Tech, l'ex Lottomatica, perde lo 0,8%. Euro su dollaro a 1,30,75 per la borsa è tutto, andiamo subito al tema di oggi e volevo coinvolgere immediatamente la dottoressa Gozzo di Adecco, perché appunto come vi dicevamo poi ci deve lasciare, per cui concentro la prima ospite nella prima parte del programma per capire un po' intanto che cosa ne pensa rispetto a tutti questi elementi che abbiamo messo in cantiere questa mattina. Ancora più concretezza ci chiedono i nostri ascoltatori e vogliono sapere nel dettaglio quali sono le aziende che cercano in questo momento e quali profili. Adecco che tipo di osservatorio ha messo in campo per soddisfare queste curiosità, dottoressa Gozzo? Ma come diceva giustamente lei, è necessario saper leggere il mercato del lavoro, perché un dato interessante è che in controtendenza rispetto a questo crescente livello di disoccupazione, in realtà ci sono alcuni settori che invece cercano e dove invece i profili non si trovano. Ed è il settore, diciamo, per quanto ci riguarda, dei profili specializzati, soprattutto nell'industria metalmeccanica, seguita sicuramente dal chimico farmaceutico, l'alimentare e il tessile. Figure specializzate come manutentori, operatori su macchine utensili, saldatori, diciamo tecnici. Esiste proprio un gap occupazionale legato a questi profili. A nostro avviso sicuramente non c'è stato un ricambio generazionale rispetto a queste mansioni, che è chiaro che sono meno attrattive rispetto a un tempo rispetto a questi profili. No, molto per interessante, peraltro. Si cerca. No, la interrompo perché è molto interessante, poi sentiremo anche il contributo del governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco, che ha rilasciato settimana scorsa nel corso delle considerazioni finali, ha espresso appunto delle riflessioni sul tema della staffetta generazionale. È interessante quello che diceva lei, ma non l'ha fatto solo Visco, per la verità in molti stanno guardando a questo strumento di collocamento soprattutto per i giovani sul mercato del lavoro con un po' di scetticismo, non piace, e invece lei dice in realtà non c'è questo ricambio, magari con la staffetta per certe professionalità forse sarebbe anche necessaria. Certo, diciamo che ci sono dei profili che non esercitano più un'attrazione rispetto ai giovani, ma dall'altra parte sono anche i profili che comunque vengono cercati. E d'altra parte c'è un'evoluzione tecnologica talmente veloce che rende anche altrettanto velocemente vecchie le competenze tecniche, per cui sarebbe necessaria una continua formazione su questi profili molto, molto specializzati. Certo, ma sono proprio pochi i curriculum di naturalmente persone che si propongono, che vi arrivano appunto per questi profili? Assolutamente pochi e occupati, tra l'altro, quindi cioè comunque probabilmente sono più profili che cercano di cambiare lavoro che cercano un nuovo lavoro rispetto al disoccupato. Certo. Le faccio un esempio: noi dall'inizio dell'anno, rispetto a quella che è la categoria comunque in assoluto sempre più ricercata, che è l'operaio generico, comunque non siamo riusciti a ad evadere, a coprire, diciamo, più di 1.000 richieste. Quindi c'è proprio una incongruenza nel dato della disoccupazione. Mm-hmm. Beh, insomma, sono veramente, quando entriamo poi nel concreto e spezzettiamo, svisceriamo le statistiche, davvero gli aspetti che emergono sono molto interessanti. Vi leggo subito una mail che ci ha scritto un imprenditore del centro Italia, Riccardo, ci scrive da Terni, lo salutiamo, e dice: la riconversione professionale è un tema focale, ma vanno assolutamente evitati i corsi nella scuola privata o similari. Le riconversioni devono essere eseguite direttamente nelle aziende, lavorando a basso costo per periodi precisi. Non si trova un elettricista, un meccanico, un saldatore, un tubista. Gozzo, che ne dice? Confermo assolutamente, è proprio in linea con quanto dicevamo prima. Non si trovano, sono profili che non esercitano proprio attrazione nei confronti dei giovani, quindi sono poco propensi a formarsi in questi Ma il problema settori. Potrebbe essere proprio questo, dottoressa Gozzo, che le aziende cercano magari intanto giovani per poter inserire in azienda con contratti che costino un po' meno, un lavoratore che ha un po' di esperienza, che magari potrebbe essere quel profilo un po' più modesto e più adatto ad assumere un impegno di questo tipo all'interno di un'azienda. Che ne dice? Il problema potrebbe essere questo? Allora, sicuramente il profilo che ha già esperienza deve essere valutato e deve essere valorizzato anche dal punto di vista retributivo. Per il giovane che inizia, comunque c'è un percorso da fare dove la formazione ha comunque un valore che il giovane, a mio avviso, dovrebbe apprezzare. Quindi anche i percorsi rilanciato dalla riforma con l'apprendistato, dal nostro punto di vista, va in questa prospettiva. Mm-hmm. Allora, stiamo cogliendo l'occasione, certo, dell'apprendistato in somministrazione. Infatti, allora volevo sentire anche le altre due società che sono con noi questa mattina per capire se intanto si ritrovano nelle considerazioni che abbiamo fatto fino a questo momento, e volevo aprire appunto con la dottoressa Daniela Caputo di Manpower Group, perché dopo la lettera che ci ha scritto Enrico ci è arrivato anche questo comunicato con questa iniziativa fatta proprio da Manpower, che ha esplorato tutto l'universo mondo delle società delle quali appunto si occupa su scala mondiale, e ha fatto proprio un check-up molto preciso dei profili più difficili da trovare, e sono emerse anche delle cose molto interessanti rispetto a quello che è cambiato fra l'anno scorso e quest'anno. Quindi non stiamo parlando anche di archi temporali di confronto molto distanti. Da un anno all'altro, già, dottoressa Caputo, i profili ricercati dal mondo industriale ed imprenditoriale sono cambiati nel giro di un anno. Sì, nel giro di un anno questa testimonianza chiaramente di come evolve velocemente il mondo del lavoro e come evolve anche l'esigenza delle aziende di ricercare profili qualificati. Intanto un breve dettaglio sulla tipologia di indagine a cui lei faceva riferimento, che si chiama Talent Shortage, che, come diceva giustamente, è un'indagine che viene svolta dal gruppo Manpower a livello globale. Quest'anno in realtà devo dire che c'è anche un allineamento piuttosto sostanziale fra i dati emersi sui profili più richiesti in Italia con il resto d'Europa. Bisogna specificare che quando parliamo di profili più richiesti in realtà intendiamo i profili che sono più difficili da rintracciare sul mercato. Uh-huh. Quindi anche quando scendiamo nel dettaglio di quali sono questi profili, dove sicuramente al primo posto troviamo figure specializzate nell'ambito del commercio e dell'internazionalizzazione, soprattutto, che ci danno un'idea molto chiara e molto precisa di dove vanno le aziende, quindi quali sono i percorsi di investimento sul loro business, al secondo posto troviamo, in maniera quasi, no, un po' sorprendente, delle figure professionali che possono essere considerate tradizionali, quali gli amministrativi, gli addetti a back office, figure segretariali. Questo va letto, e va letto da due punti di vista. Il primo è quello delle aziende, che fanno fatica a rintracciare figure professionali, seppur di stampo tradizionali, ma che abbiano delle competenze adeguate e allineate proprio all'evoluzione che c'è in atto da un punto di vista professionale, e soprattutto allineate a quelle che sono le sfide delle aziende sul mercato, sfide che vanno ovviamente nella direzione, ripeto, dell'internazionalizzazione, della digitalizzazione, e poi anche e soprattutto di natura competitiva, quindi come mi rendo conto e quanto sono competitivo sul mercato. Il secondo punto di vista è naturalmente quello dei candidati, dei lavoratori, che molto spesso fanno fatica a capire perché le aziende cercano quelle figure professionali nelle quali loro si riconoscono, perché quando parliamo soprattutto di profili amministrativi e segretariali ovviamente c'è una grande offerta, e questo è il primo punto. c'è una grandissima offerta, evidentemente con non un'altrettanta adeguata domanda, e quindi bisogna tornare un po', ecco, per prendere i punti di concretezza, bisogna un po' tornare anche ai principi fondamentali e basilari della ricerca del lavoro. Oggi il mercato è contraddistinto appunto da grande competizione anche per pochi posti di lavoro, e quindi bisogna sapersi orientare nella ricerca, bisogna mettere in atto una strategia di ricerca di occupazione che passi, tanto per cominciare, da una rivisitazione di tutti i canali di ricerca, piuttosto che anche banalmente dalla ridefinizione di un proprio curriculum adeguato al contesto di riferimento e anche adeguato ai nuovi canali che ci sono per la ricerca e che utilizzano anche le società di ricerca di lavoro. Quindi l'orientamento nella ricerca è molto importante. La interrompo per un attimo, dottoressa Caputo, perché volevo far fare un'ultima battuta ad Alessia Gozzo, che poi ci deve lasciare. Poi le lascio sicuramente completare il suo ragionamento, perché c'è un aspetto interessante. Ci infilo dentro una riflessione che stavo facendo prima di iniziare la trasmissione con una nostra assistente ai programmi, Laura Fagin, che dice: ma insomma, come facciamo anche a sapere se magari c'è qualche azienda sul mercato che cerca esattamente il mio profilo, ma io non ho la capacità di individuarle, magari, ed è una tipologia di azienda alla quale io, come persona che si mette a disposizione, non avrei mai pensato, per cui ci sono a volte anche dei meccanismi nel cosiddetto matching che devono essere conosciuti. È un termine in inglese, ma è in realtà proprio il momento di incontro fra chi offre lavoro e chi lo cerca. L'ultima riflessione con Alessia Gozzo, chiedo scusa al dottor Daghero, ma lo faccio argomentare bene nella seconda parte del programma, gli darò tutto lo spazio che non gli ho dato ora. Dottoressa Gozzo, iniziative concrete, fiere, momenti di incontro e di consulenza, di disponibilità sul mercato per le persone. Voi avete fatto di recente il cosiddetto Way to Work a settembre, un'altra grande iniziativa, se ce la racconta già, così i nostri ascoltatori sono pronti. La parte, diciamo, il secondo step di questo nostro progetto Way to Work sarà appunto quella di andare a derogare nel mese di settembre-ottobre dei workshop per aiutare proprio a cercare lavoro, quindi dei corsi di orientamento, sono 5 giornate dove andiamo a dettagliare come presentarsi al mondo del lavoro, come dove? Comunicare. In un'unica città in Italia? Su tutte le principali città italiane, lasciamo ancora aperte fino a tutto il mese di luglio le iscrizioni, sono naturalmente le ore di formazione gratuita rivolte agli under 30. Molto bene, grazie, in bocca al lupo, poi ci faccia sapere come andrà, anzi magari intorno a settembre riapriremo una finestra su questo argomento per spiegare ai nostri ascoltatori dove andare in queste 5 giornate. Molte occupazioni stanno scomparendo. Negli anni a venire i giovani non potranno semplicemente contare di rimpiazzare i più anziani nel loro posto di lavoro. Vanno assicurato sin d'ora le condizioni per favorire la nascita e la crescita di imprese nuove, generare nuove opportunità di impiego. Le riforme di struttura richiedono tempo, possono essere attuate in sequenza purché definite in un quadro complessivo che ne renda immediatamente chiari le finalità, le implicazioni, i benefici. Un programma credibile può incidere da subito sulle aspettative, eliminando le incertezze e favorendo la fiducia degli investitori, le prospettive di occupazione e di reddito, soprattutto dei giovani, che oggi stentano a immaginare un futuro nel nostro Paese. E questo era il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, venerdì scorso nel corso delle considerazioni finali della Banca d'Italia, chiaramente di commenti sull'andamento del mercato del lavoro non potevano mancare, e a queste riflessioni ci aggiungiamo quello che invece ieri ha detto relativamente all'Italia, l'ILO, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, secondo il quale in Italia mancano 1.700.000 posti di lavoro, un lavoratore su 3 è precario. Eppure, a fronte di tutto questo, tante aziende cercano tanti profili. E allora noi oggi cerchiamo di capire come si possono ben incontrare domanda ed offerta in Italia, pur chiaramente mantenendo fermo il fatto che è un momento difficile, e magari anche se ci sono in giro lavoratori che vorrebbero volentieri mettersi a disposizione per questi profili di cui in parte abbiamo indicato ad inizio programma, magari, che ne so, stanno da un'altra parte rispetto all'azienda che cerca, devono pensarci un po' due volte prima di fare una scelta di vita radicale, spostarsi dalla propria città, magari lasciare la famiglia. Zoltan Daghero di G Group Coop Italia, appunto ancora buongiorno, l'ho un po' trascurata nella prima parte del programma, adesso recupero, vuole mettere insieme qualche considerazione rispetto a tutto quello che abbiamo detto all'inizio, il tema anche dei profili un po' più modesti, professionali, dei quali le aziende sono ghiottissime e non riescono a soddisfare appunto la loro esigenza. Allora io mi ricollego a quanto detto precedentemente dall'autoressa Gozzo e dall'autoressa Caputo. In realtà è un mercato del lavoro che ricerca determinate professionalità che sono difficili da reperire per le aziende. Questo venga determinato in prima battuta da quello che è un'esigenza del mercato, cioè il mercato tende a richiedere professionalità e flessibilità, sia in fase di uscita sia in fase di entrata. La professionalità non sempre la si riesce a recuperare o a reperire sul mercato del lavoro. Quindi diventa a questo punto fondamentale fare un investimento nei confronti, diciamo, della propria carriera lavorativa, sia da parte dei giovani, sia da parte delle aziende stesse. Certo, cioè, è quello che volevo arrivare a dire io, mi pare di capire che forse è un momento in cui l'industria deve fare una seria riflessione, non dico accontentarsi dei profili che trova, magari cercare di recuperare quelli più vicini a quelle che sono le sue esigenze, fare un piccolo investimento di formazione in più. Esattamente, però direi che l'investimento va fatto da ambo i lati, certo. Nel senso che è cambiato il nostro lavoro. Al centro in questo momento del mercato del lavoro non c'è più il posto del lavoro fisso, bensì c'è quello che è il concetto della propria professionalità, il concetto di employability, cioè le persone, i candidati stessi devono investire sulla propria professionalità, perché nel momento in cui raggiungono un determinato livello di professionalità, le aziende sono le prime che stanno cercando questo tipo di profili e che quindi hanno necessità di questo tipo di profili. Il vostro osservatorio, dottor Daghero, cosa dice? Quali sono i profili più ricercati? Lei mi ha già detto che condivide quello che dicevano le sue colleghe, ma magari possiamo aggiungere qualcosa in più? Ma sicuramente vengono ricercati dei profili per quello che riguarda la GDS, quindi la grande distribuzione specializzata, quindi profili legati a determinati marchi, a determinati brand, sui quali si vanno a ricercare in prima battuta degli store manager e poi anche degli assistenti, quindi delle commesse. Da questo punto di vista però viene richiesta per esempio esperienza di vendita, io stamattina curiosavo su alcuni annunci, per esempio ho visto un grande marchio della cosmesi italiana, dico mamma mia questi quanti negozi stanno aprendo in tutta Italia, e poi guardo e vedo che cercano comunque persone con esperienza di vendita. Ma un'esperienza di vendita anche limitata ai 2 o 3 anni, però per esempio diventa fondamentale la conoscenza della lingua inglese, anche per mansioni per le quali molto probabilmente certo. Qualche anno fa non era richiesta. Questo tende sicuramente a differenziare, no? la domanda da parte delle aziende, così come la conoscenza di quelle che è un minimo delle conoscenze di base informatiche, cioè quasi tutte le mansioni ormai richiedono questo tipo di conoscenze, cioè per essere appetibili sul mercato del lavoro, io mi ricollego a quello che diceva lì prima, c'è una grandissima offerta da parte di persone che cercano lavoro, una grandissima domanda da parte delle persone che cercano lavoro e una bassa offerta. Sulla base di che cosa scelgono le aziende? Sulla base delle professionalità che trovano, per cui per qualunque mansione serve ormai avere una rete di competenze, un pool di competenze assolutamente fondamentale. Allora, intanto io, se siete d'accordo, darei spazio ai nostri ascoltatori, perché mi sembra sicuramente molto più bello concretizzare il programma in questo modo. Sentiamo cosa succede agli amici che ci seguono da casa, chi cerca lavoro, chi si propone, come lo fa e con quale risultato. Volevo sentire subito Francesco da Prato, perché è molto interessante, ha un profilo piuttosto specializzato, e Francesco è caduto nel frattempo. No, però è interessante quello che voleva raccontarci, perché pare che debba nascondere la sua laurea, perché lui dice magari per cominciare a lavorare si accontenterebbe anche di mansioni più modeste rispetto a quelle per le quali si è preparato all'università, ma addirittura deve nascondere questo certificato di laurea. Dottor Daghero, che ne pensa? Perché non è la prima volta che sento raccontarmi una cosa del genere. Dipende quali sono le aspettative, nel senso che normalmente le aziende tendono a voler assumere con quelle che sono delle forme contrattuali flessibili, per cui non sempre le aspettative di persone che si sono laureate, magari con un'ottima votazione, sono in linea con i contratti che offrono direttamente le aziende. Ma lui dice io non la voglio neanche mostrare la laurea, perché io voglio lavorare subito, mi accontento magari anche di fare l'autista, per esempio, per una società, adesso banalizzato, immaginando così che l'ascoltatore potesse raccontarci una cosa del genere. Ma ha davvero capita questo? No, direi da questo punto di vista no. Cioè è ovvio che però le persone che hanno studiato, che hanno raggiunto un determinato titolo di studio, tendono ad avere delle aspettative allineate a quel titolo di studio. Per cui nel momento in cui si deve andare a operare una fase di selezione, tendenzialmente si tenderà a dare priorità a quella che è un'esperienza acquisita. Quindi ecco, diciamo che se lui intermediasse la sua offerta con un'agenzia, è chiaro che deve dimostrare tutta la sua preparazione. Poi se magari fa per conto suo, si presenta ad una società, dice guarda, sono disposto a fare anche il commesso, magari può anche, come dire, negare o non dire che ce l'ha, però è chiaro che se ti rivolge a certi canali per proporti sul mercato, è bene che questi canali conoscano tutta la tua condizione. Assolutamente sì. Certo, professionale, ma anche in termini di esperienze passate, ma anche appunto di preparazione accademica. Sentirei adesso Francesco da Napoli, anche questa è un'esperienza interessante. Francesco, buongiorno, e poi la commentiamo con Daniela Caputo di Manpower Group. Francesco, buongiorno. Buongiorno, sono Francesco da Napoli. Niente, la mia domanda era questa. Io sono iscritto, non mi ricordo, più o meno 2006, sì, sulla Adecco. Ah sì, che non abbiamo più adesso con noi, però magari. Vabbè, è lo stesso. Però comunque mi sembra che sono stato iscritto pure sull'Empower, però poi mi sono cancellato perché arrivavano cose strane pure da lì. Praticamente io per tutto questo periodo arrivavano, nonostante avessi inserito un curriculum diciamo ben specifico, in più allegato quello diciamo creato da me, praticamente arrivano richieste assurde, cioè tipo a me è arrivato come il macellaio, il salumiere, cioè io sono un tecnico di elettronica e telecomunicazioni, ho lavorato in assistenza tecnica dal 94 al 2003 per la Motorola, NEC, marchi importanti, la quale io lavoro a livello diciamo di lavorazioni su schede per la riparazione proprio del telefonino. Sì, sì. Mi scusi, no, per capire anche come funziona un po' l'incontro tra domanda e offerta. Sì. Queste richieste strane, come le definisce lei, le arrivavano perché magari in quel momento l'agenzia di Napoli, di queste società che lei ha citato, appunto, la chiamavano e le dicevano: guarda, c'è questo posto da macellaio libero, lo vuoi venire a fare lo stesso? Oppure erano curriculum che così le arrivavano, no, giusto perché. Avendo un po' esperienza pure in informatica, probabilmente nei filtri sono inserite delle parole che magari il motore di ricerca va a cercare un qualcosa che poi lo ha assieme diciamo a questa ricerca. Certo, ma magari nel profilo specifico sono un tecnico, cioè non so tagliare la carne. Adesso lavora Francesco intanto? Io intanto per fortuna lavoro perché bene, è il mio settore, però ora sto con i gigs, sto a 4 ore, sto con ore ridotte, quindi sto prendendo. Cassa integrazione. Francesco, tenga duro e soprattutto magari colga l'occasione in questo frattempo per migliorare ulteriormente le sue competenze. Io per intanto io ho maturato un'esperienza diciamo più a livello pratico perché sono stato sempre in laboratorio, ho lavorato per marchi leader come Motorola, Samsung, fino a poco tempo fa avevamo Samsung, quindi cioè nello specifico diciamo a livello didattico in elettronica io sono a 360 gradi, posso riparare anche la lavatrice e andare a finire. Certo, ma Francesco, è disposto a spostarsi lei da Napoli? Purtroppo no, quello è il problema, se no già mi sarei spostato con mia mamma. Certo, assolutamente la capisco, perché non è l'unico e non è che tante volte uno non si vuole spostare perché così per partito preso è attaccata alla città, ci sono anche delle problematiche familiari molto spesso che non lo consentono. Allora Daniela Caputo, le ho messo insieme un piattino piuttosto ricco di, se vuole, commenti da fare. Vogliamo cominciare intanto sul tema, devo pure andare in pausa, senta, facciamo una cosa, ho la prossima pausa. Esatto, la facciamo così almeno non la interrompo un po'. Però il tema da cui voglio partire è quello, quando arrivano, come dire, delle proposte di lavoro che non hanno nulla a che fare, magari avete anche perfezionato adesso la vostra attività rispetto al passato, però poi ci deve raccontare come funziona. Eccoci ritrovati, allora Daniela Caputo, Manpower Group, com'è possibile che al nostro Rudy, che è il mio tecnico di regia che mi segue questa mattina, qualche tempo fa sia arrivata una proposta di lavoro, ma non so se circolava il tuo nome con un'agenzia, Rudy, no vabbè, gli è arrivata una proposta di lavoro come farmacista, ma chissà cosa avrà combinato. Detto questo, ritorniamo invece all'esperienza concreta dell'ascoltatore di Napoli. Da dove partiamo per commentarla? Beh, partiamo dal fatto che chiaramente ci sono anche in questo caso due punti di osservazione, quindi due letture. Da una parte abbiamo a che fare ovviamente con strumenti informatici che sono sempre perfettibili e quindi nel caso specifico le modalità con cui i candidati vengono contattati dalle nostre agenzie sono diversi, molto spesso capita che vengano contattati tramite degli sms o delle mail che partono chiaramente in maniera massiccia e quindi giustamente come peraltro anche l'ascoltatore diceva molto spesso può capitare che nel motore di ricerca vengano inseriti, vengano tirati fuori, diciamo, degli elenchi di candidati che presentano delle caratteristiche simili o che hanno inserito nel loro curriculum una parola chiave che appunto viene inserita nel motore, e quindi diciamo che c'è la disfunzione, può capitare per quel motivo, quindi nel momento del contatto. Ovviamente al momento del contatto, nel momento successivo il contatto c'è l'approfondimento, per cui se c'è una distonia rispetto al profilo del candidato viene evidenziato immediatamente e quindi non si procede. Detto questo, ecco, un consiglio pratico che possiamo dare è quello di essere sempre molto precisi e focalizzare bene anche il settore, parole da inserire nel curriculum che abbiano assoluta attinenza a quelli che sono gli obiettivi professionali. Ottimo. Questo è molto importante perché ovviamente non sempre si ha la possibilità e il tempo di poter fare questo tipo di approfondimento su ogni CV, e questo lo dico anche a beneficio dell'ascoltatore di prima, che insomma io mi rendo conto perfettamente dell'esigenza in questo momento di vagliare tutte le opportunità, però è un peccato non utilizzare il proprio titolo di studio. In Italia siamo a una percentuale ancora molto bassa di impiego di laureati, quindi ben venga chi ha questo titolo di studio, deve essere orientato, bisogna avere dei piani anche qui molto puntuali di ricerca di lavoro, essere determinati e andare dritti all'obiettivo. No, tra l'altro adesso mi viene anche un po' da sorridere, non perché spero che capiti a tutti, ma magari meglio che arrivino 10 proposte di lavoro che magari non sono tanto attinenti con le nostre caratteristiche, piuttosto che non ricevere un bel nulla. Ecco, magari forse avere un po' più di movimento intorno è preferibile rispetto al nulla, perché poi fa cadere anche in depressione diretti interessati. Dottoressa Caputo, e lo dico anche a Zoltan Daghero, metto insieme un altro paio di ascoltatori perché hanno delle esperienze molto interessanti. Comincerei con Marco dalla provincia di Fermo. Sì, buongiorno. Buongiorno. Io volevo dare questa piccola esperienza personale. Io, diciamo, a 30 anni sono stato licenziato da un'azienda in chiusura per la quale ho lavorato per diversi anni, diciamo da dopo il diploma, ecco, fino appunto a 30 anni, e dai 30 anni ai 40, adesso infatti ne ho 40, ho iniziato la trafila con le agenzie interinali, ho lavorato per Manpower, per G-Group, trovando onestamente sempre lavoro. In che settore lavora lei? Fermo, come le Marche? Calzaturiero. Sai perché gliel'ho chiesto? A parte che sono marchigiana, quindi me lo immaginavo. Perché c'è, mi scusi se la interrompo, una ascoltatrice, Cristina, che ci ha scritto poco fa: sto cercando da un mese addetti al settore calzaturiero nel comparto di Santa Croce, quindi credo che sia la zona toscana, perché lei ci scrive da Pontedera. Non li trovo, non esistono scuole di formazione, questo è il principale problema. Chiusa parentesi, Marco, poi magari vi metto in contatto, chissà che non voglia farsi un giretto là. Ci dica. No, ecco, l'esperienza mia forse è leggermente polemica, ma è giusto per, diciamo, indirizzare il discorso su un problema. Adesso io ho 40 anni, sono sempre precario e faccio l'autista. Pur avendo conseguito tutti i tipi di patenti possibili e immaginabili, la discriminante tra essere assunto in una ditta o meno è: ah, ma noi cerchiamo il dipendente romeno, noi cerchiamo, diciamo, il dipendente africano, diciamo, che possa abbattere il costo del lavoro, dice lei. La sintetizzo io molto, molto velocemente. L'ultima, proprio per dire, che mi è successa pochi giorni fa, dice: ah sì, il posto è disponibile, ma se sei iscritto alle liste di invalidità. Quindi dovrei essere rapido. Diamo una bella martellata su un piede, Marco, così almeno siamo tutti contenti. L'intenzione era quella, insomma. Grazie. Marco, commento questa sua situazione con Zoltan Daghero di G-Group. E allora, cosa deve fare questo quarantenne che comunque negli ultimi 10 anni si è assolutamente adattato già da una condizione di precariato che è diventato ormai il suo stato, sì, esatto, come per la verità sta diventando appunto per quasi tutti i ragazzi. Ci dobbiamo abituare a quella che in gergo, come dire, mondo del lavoro si chiama flessibilità. Però lui ha ragione, io, dice, mi sento anche addirittura, pur avendo un profilo modesto per la tipologia di lavoro, si trova a competere con persone ancora più basse in termini di esigenze finanziarie, quindi le aziende chiaramente si rivolgono a queste professionalità. Sicuramente questa è una questione estremamente importante nel mercato del lavoro, nel senso che le aziende, proprio in base a quello che è il momento attuale di mercato, hanno l'esigenza di ridurre i costi. Quindi qualunque tipo di soluzione riescono a trovare, no, per abbattere quello che è il costo del lavoro, sicuramente ritengono, cioè fa sì che rendano più appetibile un profilo piuttosto che un altro, a parità ovviamente di qualità espresso dal dipendente. Da questo punto di vista io credo che si debba intervenire a livello legislativo, andando a favorire favorire quindi anche con delle decontribuzioni quelle che sono le aziende che assumono. Quindi da questo punto di vista ci dobbiamo aspettare degli interventi da parte del governo su questo tema. Però insomma Marco non deve scoraggiarsi. No, Marco non deve scoraggiarsi, e da questo punto leggo anche però la sua esperienza in maniera positiva, perché certo, il fatto che lui abbia lavorato per 10 anni comunque cambiando società ha sempre dato dimostrazione da un lato di sapersi adattare, però ha anche dato dimostrazione del fatto che c'è effettivamente lavoro. Lui per 10 anni sicuramente è una persona che ha un forte orientamento al lavoro e è stato fatto lavorare delle agenzie. Ovvio che le agenzie non possono da questo punto di vista, cioè sono degli intermediari, quindi serve comunque un utilizzatore finale che abbia in mente la stabilizzazione del singolo lavoratore, cioè svolgono una funzione di mediazione. Quello che posso dirle è che da questo punto di vista, nel momento in cui il lavoratore dà un certo tipo di disponibilità e ha un certo tipo di caratteristiche in termini di qualità del, diciamo, dell'attività lavorativa che svolge, le agenzie sono i suoi primi, diciamo, sostenitori nei confronti delle aziende. Molto spesso i lavoratori che lavorano molto bene tendono a lavorare, magari non sempre per il medesimo utilizzatore, però tendono a lavorare con una certa continuità. Certamente. Allora, noi purtroppo stiamo già andando verso la chiusura del programma, ma come sapete i nostri martedì del lavoro vanno avanti, andranno avanti e ritorneremo sul tema dei profili da ricercare. C'è l'ascoltatrice a cui ho fatto riferimento prima, che cerca professionalità nel campo calzaturiero, che ci ha ringraziato e ci ha scritto appunto: grazie mille, sono assetata di curriculum. E quindi poi magari metteremo su Facebook il logo di questa azienda, e quindi cerchiamo anche noi di fare un po' da intermediari. Ci mettiamo in diretta concorrenza con Manpower, Adecco, G Group, ma naturalmente sto scherzando. Daniela Caputo, vado ad una conclusione, se vuole con lei una conclusione appunto rispetto al tema di oggi. Non lasciamo appunto che ci si scoraggi. Cosa dobbiamo fare in questo momento, anche perché ormai ha perso le speranze? Lo sa che lei c'è il fenomeno del NEET, no? Chi non cerca addirittura lavoro, non studia. Questo è un fenomeno che riguarda soprattutto di più i ragazzi, ma 30 secondi proprio per lanciare almeno un messaggio di incoraggiamento, non dico di speranza, ma concreto. Esattamente su questo punto invece voglio rilanciare quella che è l'opportunità offerta dalle agenzie per il lavoro, proprio come punto di accesso alle informazioni e all'orientamento al lavoro. Quindi questa deve essere la prima fonte oggi per allargare il tema, quindi non soltanto la ricerca del lavoro auto cure, ma anche la possibilità di accedere ad informazioni su tutto ciò che si muove intorno al tema, alla tematica occupazionale, le riforme, il tema delle riforme e naturalmente tutto ciò che grazie alle riforme si può generare anche a livello locale. Quindi benissimo, l'invito per i nostri ascoltatori quelli di recarsi presso le nostre grazie a tutti, ci sentiamo al più presto su questi temi, a domani. Salva Danaio.